Rosso diavolo, scindogli atomi del cielo, quello giusto e quello vero dove sta? Rosso diavolo, nell'amaro stringo i denti, chissà se nei miei sentimenti ci sarai. Velato ma sincero, nelle tasche il mio pensiero, fruga rettilinei di incredulità. Un silenzio che appiattisce, un dibattito che cresce, il detonatore che poi parlerà. Rosso diavolo, nella testa che mi fuma, c'è una notte senza luna che fa crack. Un telefono e una stanza, una voce e una distanza, ed un treno sul binario che mi porta via. Ho il nero nelle mani di una pelican che muore tra le dita, è una dedica spietata a questa pestilenza cieca tra il futuro e i miei guai. Rosso diavolo, ho il corpo di un leone, un filo nell'interruttore, up and down. Rosso diavolo, con i guanti per la festa, in delirio quanto basta, faccio il clown. Infilarsi dietro un mondo senza nuvole, di vetro che non tagli mai. Abbracciarsi con la rabbia e fuochi e numeri, e maledire per tutto quello che non hai. Rosso diavolo, sopra i piedi c'ho la testa, sangue in corpo non resisto, è un countdown. Rosso diavolo, filo nero in campo oscuro, nego tutto ma poi giuro lo farò. Ho il nero nelle mani di una pelican che muore tra le dita, è una dedica spietata a questa pestilenza cieca tra il futuro e i miei guai. Devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo,